Ecco il tempo prefisso. Amor, fa quanto puoi, che Orlando schernirà gli inganni tuoi. Gran donante, con artiglio celeste il folgore sostieni. Le mie leggi son queste, dalla region stellante, che rapida me vieni. Vi assicuro a non lasciar dormire.